Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Un abuso al giorno, la trasmissione che quotidianamente vi accompagna nei vostri percorsi la mattina presto e la sera in replica alle 20:45 con casi di abusi, soprusi e violazioni dei diritti. Ricorderete ieri, e lo abbiamo fatto anche la scorsa settimana, abbiamo ripreso una vicenda che abbiamo trattato quasi un anno fa, vale a dire quella della famiglia Nobile, una famiglia di Ercolano, che da un anno vive nell'ufficio anagrafe del comune. È una situazione intollerabile per tutti, un abuso alla dignità della persona e un abuso alla dignità dei lavoratori, perché lo avete sentito anche ieri, mentre la famiglia Nobile vive nell'ufficio anagrafe, i dipendenti dello stesso ufficio lavorano. Abbiamo ascoltato ieri l'assessore Pirone, al quale abbiamo posto alcune domande, assessore alla casa del comune di Ercolano, e ripartiamo proprio dall'assessore Pirone, al quale non posso far altro che chiedere qual è la soluzione che appunto si può prevedere per la famiglia Nobile. Noi siamo persone pazienti, e anche i nostri cittadini lo sono, nel senso i nostri cittadini di Ercolano, nel senso che noi una soluzione di forza ancora non la vogliamo adottare. Noi vogliamo dare ancora a queste persone la possibilità di riflettere, di trovare loro un'abitazione, a cui noi poi gli diamo un aiuto economico. Noi gli abbiamo detto per 3 anni, lei pensa che la Regione Campania dà un sussidio ai fitti, alle persone disagiate sui fitti? Voglio dire, nei giri di 2 anni loro entrerebbero in questo contributo regionale. Assessore Pirone, mi scusi, ma va tutto bene, cioè io non metto assolutamente in dubbio che voi stiate cercando da oltre un anno una soluzione. Stiamo però di fatto assistendo ad un muro contro muro, perché la famiglia Nobile a noi, a Radio 24, ha detto: io non ho nessuna intenzione di andarmene, il comune mi sta prendendo sostanzialmente in giro. Questo è un po' il ragionamento della famiglia Nobile. Io le chiedo, ma questa non è una sconfitta, non dico dello Stato in senso istituzione, ma comunque degli organismi che ne fanno parte, non una sconfitta da parte di un comune e anche di una collettività? Perché non credo che da nessun'altra parte si possa tollerare che una famiglia entri in un ufficio comunale e ci rimanga per oltre un anno. Quello è vero, questo che lei dice. Però lei tenga presente, è vero, quindi noi prima o poi dovremo deciderci poi a usare altri metodi. Se proprio la famiglia Nobile non vuole comprendere l'aiuto che noi gli vogliamo dare, dobbiamo evidentemente prendere una decisione. Però le voglio dire questo: noi comunque parliamo di persone disagiate e soprattutto parliamo di persone che sono solo donne. Ecco, allora noi quando, diciamo così, di fronte al disagio, e poi il disagio che colpisce soprattutto le donne a sud soprattutto, e quindi anche nella nostra città, Ercolano, noi, come dire, nell'uso della forza poi ci teniamo un attimo, ci fermiamo un attimino e cerchiamo di far ragionare queste persone, cerchiamo di dirgli sempre: guardate, noi vi saremo vicini, vi aiutiamo, facciamo uno sforzo, vedete di trovare un'altra cosa. Ovviamente la cosa non potrà andare avanti per tanto tempo, anche questo, perché approfittare poi diciamo così della bontà dell'amministrazione. Certo, questo non va bene. Anche della nostra comunità nemmeno va bene. Ecco, io le chiedo, le faccio un'ultima domanda, assessore, la ringrazio per questa chiacchierata che lei ha voluto concedere a Radio 24, che fa onore alla sua amministrazione, ma non crede che questo sia un precedente molto molto pericoloso sul vostro territorio, ma anche sui territori vicini, sui comuni vicini? Cioè, lei ha ricordato appunto lo stato di disagio soprattutto delle donne, e se domani si svegliasse una nuova famiglia e come dire, andasse a occupare le stanze dell'ufficio tecnico nel suo comune, oppure nel comune vicino a Torre del Greco, a Torre Annunziata, qualcun altro si svegliasse e andasse ad occupare le stanze, perché no, proprio dell'assessore alla casa? Insomma, non crede che questa vicenda debba essere forse anche risolta con l'aiuto di persone vicine a voi in altre amministrazioni o la stessa provincia? Ecco. Sì, è vero quello che lei dice, potrebbe determinarsi dei precedenti, però ricordiamoci che questo qui è anche questo, è un caso eccezionale. Loro c'avevano il loro genitore, c'avevano uno dei loro familiari stava male, era attaccato a un tubo, cioè non era proprio, diciamo così, un caso normale, di un normale estratto, e quindi no, hanno occupato un ufficio comunale, perché quelli subito sarebbero stati sgomberati. era una situazione di un palazzo pericolante, c'avevano un loro genitore sofferente, per cui noi come comune ovviamente abbiamo fatto il possibile per metterci a disposizione di questa, diciamo, di questo piccolo nucleo familiare, certo, che viveva un disagio. Assessore Pirone, detto questo, però io logicamente bisogna cominciare a vedere un pochettino queste persone, anche con l'aiuto della provincia, che cosa si può fare. Assessore, la ringrazio per il suo intervento e come promesso ai nostri radioascoltatori ci mettiamo in contatto ora con il sindaco di Ercolano, Gaetano Daniele. Buongiorno, sono Roberto Galullo, Sole 24 Ore, Radio 24, come sta? Sopravviviamo. Sopravvivete. Allora, io la sto sentendo per la mia radio relativamente alla vicenda che lei conosce, la famiglia Nobile. Ci sembrava doveroso concludere questo viaggio, mini viaggio all'interno del comune di Ercolano, della famiglia Nobile, ascoltando la sua voce. Che cosa ha da dire su questa situazione che mi pare a questo punto sia abbastanza incresciosa per tutti? Niente, che spero che la famiglia Nobile voglia approfittare dell'aiuto che il comune è disponibile a dare loro e trovarsi un'autonoma sistemazione con la nostra assistenza. Ecco, signor sindaco, questo lei ce l'aveva dichiarato anche mesi fa e lo ha ribadito anche il suo assessore, però non sembra proprio che la famiglia Nobile voglia accettare, anzi con noi è stata la famiglia Nobile molto determinata nel dire noi da qui non ce ne andiamo, però mi pare che la legalità debba essere ripristinata, o sbaglio? Noi qui per la legalità veramente ci battiamo con grande coraggio. Ah, nessuno lo mette in dubbio? Veramente facciamo la lotta alla criminalità, alla camorra, al racket. In questo caso credo che ci voglia un'opera di persuasione, ci troviamo di fronte a un disagio sociale e dobbiamo, il caso è qui che prevalga la persuasione e il dialogo. Ecco, però il dialogo dura da un anno, lei alcuni... Il tempo che sarà necessario, perché sono persone che probabilmente c'è anche chi gli dà dei cattivi consigli. Indubbiamente, questo quindi, lei lo ha già detto, infatti, ai nostri microfoni, però mi permetto. Sì, l'ho già detto e quindi non posso che ribadire. Però lei disse anche. Perché noi possiamo avere una sola linea di azione, diciamo, possiamo avere una sola linea di condotta, non è che possiamo inventarci cose che non siamo in condizioni di. Assolutamente, fare. Però le ricordo, sindaco, che lei disse alcuni mesi fa: se saremo costretti, dovremo ricorrere all'uso della forza. Se saremo costretti, purtroppo sì. Non siamo ancora a questo estremo, quindi io assolutamente e nessuno ovviamente. Però alla fine spero che prevalga il buon senso. Ovviamente nessuno si augura questo. Sono persone bisognose, quindi assolutamente. Sono indigenti, quindi. Ecco, una domanda mi era rimasta. Cerchiamo di essere forti con i forti. Ecco, forti con i deboli. Un'ultima domanda vorrei fare, una domanda che mi è rimasta, diciamo così, in sospeso da alcuni mesi, dall'ultima volta che ci siamo sentiti. La famiglia Nobile insiste nel dire che lei avrebbe una casa da mettere a disposizione e non la vuole dare. Innanzitutto è un'assurdità. Secondo, se io avessi case a disposizione non le potrei assegnare discrezionalmente, ma dovrei comunque ricorrere a un procedimento pubblico. Perché le case sono case pubbliche, non sono case del sindaco, quindi. Certo. E questo lo può verificare, venga qui. Ma a me basta la voce ufficiale dell'amministratore principe, in questo caso del sindaco. La disponibilità di alloggi ha il dovere di assegnarle attraverso un procedimento pubblico. E le assicuro ad Ercolano. Di persone che avrebbero bisogno di una casa decente ce ne sono tante, addirittura in condizioni più disperate della famiglia Nobile. Bene, signor sindaco, io la ringrazio per questa chiacchierata. Grazie. Le auguro buon lavoro e mi auguro che a breve la situazione sia veramente risolta. Speriamo. Bene, siamo giunti al termine di questa avventura, l'avventura della famiglia Nobile che vive nell'ufficio anagrafe del comune di Ercolano. A distanza di un anno nulla è cambiato, ma le promesse rimangono le stesse. Io dico grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio a Laura Faggin, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. Vi ricordo la mail, unabusoalgiorno@radio24.it e il mio blog http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com.